Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, vi stavo aspettando, sono contenta, staremo insieme fino alle 12 con Peter Bescapè, regia la parte tecnica, come sempre Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i temi di cui ci occuperemo oggi. La pancia, se fa male, ha le sue buone ragioni, impara ad ascoltarla. Consigli per mamme che allattano. Ictus, battilo con la prevenzione. Mal di pancia, dimmi dove, come, quando e ti dirò perché e cosa fare. Oggi parliamo di lei, della nostra pancia, se è il vostro punto debole, il cosiddetto tallone d'Achille, restate con noi. Parleremo di dolore, ma anche di altri sintomi, come la tensione, il gonfiore, i borbottii, che spesso si associano o precedono il dolore addominale. In studio con me il dottor Emanuele Meroni, gastroenterologo, direttore della struttura complessa di endoscopia all'Istituto dei Tumori di Milano, di Via Venezian. Dottore, finalmente in studio, buongiorno. Buongiorno, finalmente qui, davvero. Allora, parliamo di un disturbo che può mettere in difficoltà sia il paziente, che con il dolore ahimè si confronta, che il medico, che deve interpretarlo e curarlo. Questo capita in parte, credo, perché le cause del dolore possono essere davvero tante, diverse, banali o molto importanti, ma anche perché quando noi come pazienti diciamo ho mal di pancia, non sempre riusciamo a descriverne bene il nostro problema e poi quindi per il medico può essere difficile risalire alla causa. Parlo al singolare, ma forse dovrei parlare, dottor Meroni, di cause, usare il plurale, perché spesso sono più di una. Assolutamente sì. Vorrei incominciare con una battuta, dire che il mal di pancia è spesso la tomba del medico. Sì, si diceva così. È la tomba del medico perché in effetti le cause sono molteplici, si mette a dura prova la capacità diagnostica del medico, la capacità, adesso dico un parolone, di fare diagnosi differenziale, cioè in base alla raccolta di una storia clinica, quindi l'anamnesi, in base alla raccolta dei sintomi, capire dal paziente che disturbi e dei segni, quindi palpazione, capire, orientarsi, un po' come l'investigatore. È vero. Un pochino. Allora, se vogliamo essere di aiuto agli ascoltatori, possiamo dire, ma proprio a grandi linee, certo, che ci sono dei dolori, dei mal di pancia organici, cioè legati effettivamente a una malattia degli organi, oppure dei mal di pancia funzionali, quel che non significa che sono malati immaginari, ma che il disturbo è legato al funzionamento degli organi, questo grosso capitolo per esempio del colon irritabile. E poi un'altra grossa distinzione, se il dolore parte dagli organi interni, dai visceri, quindi dal contenuto, sì, oppure dal contenitore. Ci sono dolori addominali della parete, quindi legati, quindi più spesso con i movimenti, strappi muscolari, molto banale. E di nuovo un'altra classificazione, se sono dolori gastrointestinali, quindi che partono dagli organi che appartengono all'apparato più grosso che è contenuto nell'addome, quindi quello gastrointestinale, o non gastrointestinali, quel che si intende l'apparato urologico, genito urinario, pensiamo ai dolori ginecologici, dolori vascolari, non vanno trascurati. Insomma, la pancia è un mondo, sì, dottor Meroni. Però non basta, a proposito, quindi dire ho mal di pancia, bisogna anche dire dove, quale parte della pancia fa male. Noi possiamo iniziare a descrivere così il nostro, ma anche se non sempre però è facile, perché non basta dire ho male sotto lo sterno oppure mi fa male a destra, perché tante volte il dolore si localizza ma poi piano piano si irradia, un po' a macchia d'olio. Giustissimo. L'importante è proprio saper riferire al medico dove il dolore apparentemente origina, sì, e poi eventualmente dove si irradia, come giustamente dice lei. L'ombelico è sempre un punto di riferimento. È il centro del mondo. Esatto, il centro del mondo, siccome la pancia è un mondo, ci siamo. In rapporto all'ombelico, immaginiamo di dividere la pancia in quattro quadranti, sì, i due superiori, destro e sinistro, e i due inferiori, destro e sinistro, e questo già può dare un orientamento al medico che conosce, altro parolone, l'anatomia topografica, un po' come una piantina, capire più o meno quali sono gli organi da cui può partire il male. Di nuovo è importante differenziare la sede primaria, cioè da dove il dolore parte, dalle sue radiazioni, tipico, no? Dell'appendicite che dà un'irradiazione verso la coscia, la colica renale che dà un dolore di nuovo verso i genitali. Quindi anche questo è molto importante perché ci serve per avere un orientamento. E a proposito di dolore, bisogna dire anche come si manifesta il dolore, se affitte, a crampi, se è bruciante. Assolutamente sì. Lei ha fatto riferimento al tipo di dolore, quindi alla caratterizzazione, alle caratteristiche del dolore. Se è un dolore bruciante, se è quindi urente, se è una coltellata, se è uno spasmo. Però ci sono anche altre caratteristiche, per esempio la durata. Se è un dolore continuo o intermittente, l'intensità, che ahimè è un parametro molto soggettivo, quindi difficilmente valutabile, salvo che si faccia ricorso ad alcune scale per il dolore. Quindi tutte queste cose definiscono il parametro come. E per il quando, anche questa immagino sia un'indicazione importante, ad esempio, dopo mangiato o a digiuno, dopo il movimento oppure quando sto ferma, al mattino oppure alla sera. Giustissimo, questo può richiamare l'organo che è coinvolto, movimento si diceva parete addominale o banalissimi dolori dell'apparato locomotore, i pasti, perché in rapporto a questi cosa succede? Succede che l'apparato gastroenterico si mette in moto. Quindi certi dolori legati alla motilità vengono accentuati, altri legati alla fase della digestione si manifestano, pensiamo alle coliche biliari per esempio, altri dolori legati ad uno stato infiammatorio vengono leniti dal pasto, perché il pasto tampona, pensiamo alle gastriti, alle ulcere gastriche, oppure altri vengono accentuati. La vecchia medicina diceva un dolore che insorge dopo mezz'ora dal pasto potrebbe essere un'ulcera duodenale. Oggi grazie a Dio abbiamo altri elementi per far diagnosi. Di cui naturalmente parleremo nel corso della trasmissione, approfittando della sua competenza e della sua esperienza. Aspettiamo le vostre chiamate 824 0024 e anche i vostri messaggi che stanno già arrivando al 349 238 6666. Ci occuperemo anche del mal di pancia dei nostri bambini e di quel mal di pancia da paura, da stress, chi non l'ha avuto, no? Magari vicino ad un colloquio, prima di un esame, molti di noi somatizzano proprio a livello dell'addome. D'altronde sappiamo che il cervello è razionalità, il cuore è sentimento, la pancia, dottor Meroni, è anche istinto. Dove, come, quando, ricordate, queste sono le tre parole chiave per raccontarci il vostro mal di pancia. Aspettiamo le vostre chiamate 824 0024. Una mela al giorno. È ricco di anticorpi ed enzimi che migliorano la salute del bambino, è immediatamente assimilabile ed è sempre alla temperatura ideale. Parliamo del latte materno e quindi delle mamme che allattano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'UNICEF, anche le associazioni mediche di tutto il mondo raccomandano l'allattamento esclusivo al seno per i primi 6 mesi di vita, perché se l'allattamento al seno fa bene al bambino, tra i tanti benefici ricordiamo che lo protegge dalle infezioni acute, alle vie respiratorie, stimola il suo sistema immunitario e agevola anche lo sviluppo neurologico. Sappiamo che allattare aiuta anche la mamma, perché rende più facile il recupero fisico dopo il parto, accelera il ritorno al peso originario e anche diminuisce la probabilità di sviluppare alcune patologie come alcuni tipi di tumore e anche l'osteoporosi. Ma l'importante è iniziare con il piede giusto. Per questo motivo è tornata a trovarci Margherita Locatelli, ostetrica e consulente professionale in allattamento. Buongiorno e bentornata. Buongiorno a voi. Allora, la prima guida è lasciarci portare dal nostro istinto, vero? E dall'istinto del bambino. Certo. Immediatamente dopo la nascita, soprattutto se è stato un parto non medicalizzato, il bambino e la mamma si trovano in quelle condizioni ideali che non si verificheranno mai più nella loro vita, ideali dal punto di vista ormonale e emotivo per riconoscersi e quindi cominciare l'allattamento, che è solo una conseguenza di questo riconoscersi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e UNICEF, che lei ha citato prima, ci raccomandano noi operatori sanitari di mettere il bambino appena nato, asciugato, ben coperto, subito dopo il parto sulla pancia della sua mamma. E si è visto che da solo, come tutti i cuccioli mammiferi, carino, è capace di arrivare al seno della mamma. L'istinto della mamma ovviamente lo aiuta in questo percorso, lo guida accarezzandolo in modo che arrivi da solo ad attaccarsi al seno. E sempre OMS e UNICEF raccomandano di lasciarli indisturbati pelle a pelle per almeno un'ora. Poi è importante che nei giorni successivi mamma e piccolino rimangano insieme. Sembra una banalità questa, ma la specie umana è l'unica che trova normale separarsi per molte ore dal suo piccolo. In realtà lo stare insieme permette nella mamma di avere quel livello di ormoni adatto per accudire il suo piccolino, per rispondere alle sue necessità, per produrre il latte a sufficienza per lui e al piccolino di poter essere allattato, richiesta, ed essere consolato quando ne ha bisogno. Insomma, trova la sua mamma. Hanno bisogno l'uno dell'altra. Ah, perfetto, non avrei potuto dirlo meglio. Hanno bisogno l'uno dell'altro. Però a volte i problemi arrivano quando la mamma torna a casa, soprattutto le preoccupazioni sono più forti nel caso del primo figlio. A me è successo così, anche perché forse non ci sono più le famiglie di una volta, dove per casa bazzicavano anche le nonne, le suocere, le zie, e ciascuna di loro poteva dare un consiglio, talvolta magari non corretto, però la mamma si sentiva in qualche modo accudita e rincuorata. E le mamme si confrontano con tanti timori, soprattutto quando si rendono conto che devono svolgere questo gesto così naturale, così fondamentale per la salute del bambino, che è nutrimento, una parola che assume veramente significati a 360 gradi, ma lei sa meglio di me, essendo spesso a contatto con le mamme, quante sono le paure e le difficoltà. Ad esempio, iniziamo dalla montata lattea. Molte mamme dicono non ho la montata lattea, non arriva, ma in quanto arriva e che cosa, come bisogna aspettarla? Allora, la montata lattea è un po' la conseguenza di come sono trascorsi i giorni precedenti. Se la mamma e il bambino, come abbiamo detto, hanno avuto la possibilità di stare insieme, sì, e hanno potuto avere le condizioni per cui il piccolino ha potuto succhiare almeno 8 volte al giorno, la montata arriva all'incirca in seconda e terza giornata. Poi è anche da dire alle mamme che se il bambino poppa di frequente non è così eclatante con questo seno che diventa molto grande, molto fastidioso, proprio perché lui ha la possibilità di drenare costantemente il latte e quindi a volte può passare inosservata, ma si capisce che è arrivata perché il bambino comincia tranquillamente a crescere, a deglutire il latte, e le mamme lo capiscono perfettamente. Invece a volte la mamma si trova in difficoltà perché si formano le ragadi, che sono molto dolorose. Sì. Allora, che cosa si possono prevenire? Che cosa si può fare? Soprattutto nel caso arrivino le ragadi, la mamma deve allattare, continuare ad allattare, o cosa può fare? Allora, gli studi ci hanno indicato che l'unico modo per prevenire e curare le ragadi è posizionare e attaccare correttamente il bambino in modo adeguato. Allora, ancora una volta il fatto di stare insieme, qua siamo a casa per cui per forza sono insieme, il bambino può essere attaccato al seno quando è tranquillo e non è arrivato a piangere, proprio perché la mamma è sicuramente con lui. È importante che il corpicino sia ben sostenuto contro quello della mamma, la testolina deve essere lasciata libera di muoversi. Deve essere posizionato col nasino di fronte al capello in modo che quando apre la bocca possa prendere... Ce l'ha comodo. Comodo la mamma, comodo il piccolino, in modo che possa prendere in bocca molta areola. In particolare noi suggeriamo di controllare che abbia più areola inferiore, quella sotto il capezzolo, rispetto a quella superiore. In questa posizione il bambino riesce a inglobare il tessuto di seno in modo tale che il capezzolo vada in fondo alla bocca, dove non viene assolutamente compresso e quindi non viene danneggiato. La mamma poi può facilitargli questa cosa modellando il seno a modo di panino, in modo che possa riuscire per a aiutarlo un po' questo piccolino. Esatto, le mamme, è proprio così. E le mamme lo sanno, ecco, lasciamoci madri, guidare sì, dal nostro istinto. Anche se bisogna dire che purtroppo, come lei ha detto, prima le mamme vedevano la zia, vedevano la sorella più grande allattare, e proprio è un'arte che si è persa, proprio perché si è perso lo stare insieme, ad avere il gruppo. Aiuta, come lei giustamente osservava prima. Noi torneremo a parlare sicuramente dell'importanza dell'allattamento al seno, ma io vorrei chiudere con una raccomandazione alle mamme, ed è quella di farsi aiutare. Se insorgono dei problemi, vuoi le ragadi, vuoi degli ingorghi di latte, o la mamma insomma non si sente sicura, in questo caso meglio parlare con un'esperta. Ce ne sono, ci si può rivolgere alle ostetriche del consultorio, quelle che ci hanno seguito in ospedale, ci sono delle associazioni, cioè il fai da te può in qualche modo mettere un po' il bastone tra le ruote di questo splendido rapporto, che è molto naturale ma va in qualche modo aiutato e quindi non ostacolato. Lei concorda? Sono assolutamente d'accordo, un caso, come diceva, di dolore che si protrae oppure di bambino che chiede costantemente di stare al seno, probabilmente c'è qualcosa che può essere messo a punto, e i punti di appoggio sono proprio quelli che ha detto l'ostetrica consultoriale, le gruppi di aiuto mamma mamma della Lecce League, oppure un aiuto più professionale, più specifico, che è ancora quello delle consulenti professionali in allattamento. E di cui esiste anche un sito. La ringrazio, la lascio alle sue mamme e ai suoi piccini. La ringrazio. Lei fa un lavoro magnifico. Buona giornata. Auguri. Buona giornata a voi, arrivederci. Grazie. Arrivederci a presto. Pronto soccorso. E noi invece torniamo ad occuparci del nostro mal di pancia insieme al dottor Emanuele Merroni. L'abbiamo localizzato, abbiamo detto che se la pancia è un mondo, l'ombelico è al centro di questo mondo. E allora, per capire dove abbiamo il mal di pancia, abbiamo preso come centro l'ombelico, giustamente abbiamo diviso la nostra pancia in quattro quadranti, destra, sinistra, superiore e inferiore. Arrivano già molti messaggi. Ho da qualche giorno una fitta dolorosa nel lato destro, specie quando mi piego, è il fegato. Questo è un dubbio che viene sempre, anche se abbiamo più volte parlato di fegato, abbiamo detto che non si lamenta se non quando proprio sta male davvero. Ma che cosa può essere? Allora, il fegato difficilmente fa male, salvo che sia ingrossato e quindi sotto tensione. Più facilmente fanno male le vie biliari, ma nella fattispecie teniamo presente che a destra c'è anche la parte destra dell'intestino, del colon, quindi di nuovo l'esame obiettivo, cioè vedere il paziente, toccare l'addome, sentire da lui quando c'è questo dolore, può aiutare molto. Perché voi giustamente la pancia la toccate. Sì. È una cosa che deve fare solamente il medico, di, per capire un po' come risponde al tocco? Assolutamente sì, capire quanto è morbida oppure che reazioni evoca, è auspicabile che il medico lo capisca. Un altro messaggio che ci scrive Antonio: perché quando faccio un po' di moto, le scale o una camminata spedita mi fa male alla pancia a sinistra? Mancanza di allenamento o infiammazione? Teniamo presente che il male a sinistra, soprattutto nella parte alta, può essere legato semplicemente anche a delle contrazioni della milza, soprattutto quando si fa attività fisica. La milza serve come serbatoio di sangue, quindi la milza spreme sangue in circolo quando serve, e spesso quindi può essere quella la causa. È facile, noi cerchiamo di localizzare, conoscendo un po' a grandi linee, no? Che cosa c'è dentro la nostra pancia, siamo portati a dire qua c'è il fegato. Se invece avvertiamo un dolore, un bruciore sotto lo sterno che si irradia, arriva fino all'ombelico, diciamo ho mal di stomaco, che può avere diverse sfumature, può essere un bruciore, un crampo. Occupiamoci di questa parte così delicata della nostra pancia. Assolutamente sì, già mi permette di puntualizzare una cosa: quando il paziente viene in visita in ambulatorio e dice ho mal di stomaco. Sì, allora, noi la diagnosi ce la facciamo velocemente. È auspicabile che il paziente riferisca alla sede, perché sennò è una diagnosi preconfezionata. Sì. Quindi bisogna prima demolire la diagnosi preconfezionata dal paziente, fargli capire che in quella zona non c'è solo lo stomaco. C'è lo stomaco e via via in profondità c'è il pancreas, se certi dolori biliari sono riferiti in quella zona. Talvolta un dolore della parte trasversa del colon viene spesso frainteso e malinterpretato come dolore di stomaco e invece colon. Quindi cominciare a capire, il paziente deve riferire dove, il famoso dove, come e quando. Questo è fondamentale. Anche perché voi dovete riappropriarvi del vostro ruolo, se no, se io vengo già con la diagnosi, poi è finita. Poi ci sono le trasmissioni, no? Belle come questa, c'è internet, il paziente è fatta. È fine. Quindi però qual è un mal di stomaco, dottor Merroni, che deve preoccuparci? Mal di stomaco che si presenta con una certa ripetitività o continuità, un dolore fisso, tanto più preoccupante quanto più il dolore è acuto, lancinante, a coltellata. Ci sono situazioni anche proprio di emergenza, non dimentichiamoci che ci sono delle vere urgenze che meritano di essere viste in pronto soccorso. Ecco, infatti un po' l'intento della trasmissione di oggi, anche di altri temi che abbiamo trattato, è di cercare, non di far diventare medici tutti noi, ma di riconoscere, di insegnarci a riconoscere quali sono i problemi urgenti e quali invece quelli che possono, certo, essere affrontati con più calma. Prima di andare ai mercati andiamo a Modena, ci aspetta Gianni. Buongiorno Gianni, devo chiederle di essere rapido nella domanda. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, senta, una cortesia, una domanda che mi sono posto da 15 giorni, perché io soffro da tanti anni di reflusso gastroesofageo. Sì. Ecco, solo che da 15 giorni a questa parte ho un sintomo particolarissimo che non ho mai avuto in tutta la mia vita. È una specie di scossa che mi parte, dura una frazione di secondo, parte dalla base dello sterno e mi si dirama alle due spalle, proprio come una scossa elettrica. E ho notato che ho più difficoltà nella digestione, così, non so, ecco, può quindi, essere riferito. Grazie Gianni, quindi dalla pancia saliamo alle spalle. Molto, molto interessante, perché mi dà spunto per dire che spesso ci sono dolori cardiaci che vengono scambiati per dolori d'esofagite e viceversa. Per motivi più disparati, che insomma è inutile approfondire adesso, talvolta i sintomi del cuore o delle coronarie, quindi dolori stenocardici, dolori di angina, tanto per parlare chiaro, mimano dolore esofagite e viceversa. Quindi se un dolore in un paziente che sa di essere portatore di ernia iatale, quindi di malattia da reflusso, ha cambiato le sue caratteristiche con delle irradiazioni strane, una valutazione specialistica anche cardiologica non guasta. Siamo tornati insieme, oggi parliamo della nostra pancia. In studio con noi il dottor Emanuele Meroni, che è gastroenterologo, direttore della struttura complessa di endoscopia all'Istituto dei Tumori di Milano di Via Venezian. Ma nell'attesa delle vostre chiamate all'800 24 00 24, apriamo una finestra per parlare di ictus. Non è una malattia rara l'ictus, è abbastanza diffuso anzi, e soprattutto la buona notizia è che però può essere prevenuto e soprattutto curato. In linea con noi abbiamo la professoressa Maria Luisa Sacchetti. Buongiorno professoressa, benvenuta. Buongiorno, grazie. Neurologa vascolare presso l'azienda Policlinico Umberto I di Roma e presidente della Federazione Alice Italia Onlus. Professoressa Sacchetti, la prevenzione inizia da giovani, perché ormai bisogna così sottolineare e ricordare bene che l'ictus non è una patologia tipica dell'età avanzata. Sì, diciamo è tipica dell'età avanzata, ma può colpire anche persone giovani. E la prevenzione funziona, ma funziona ovviamente se si comincia da giovani. Certo. Soprattutto quando si parla di prevenzione nel senso stili di vita un pochino più adeguati. Qual è lo stile di vita che riduce e agisce sui fattori di rischio dell'ictus? Ma intanto cercare di fare molto movimento, sì, ma senza esagerazione, un'alimentazione sana ed equilibrata, cercare di non prendere quelle abitudini dannose come per esempio fumare, sì, e nemmeno, cosa ancora più importante, assumere eccitanti. Gli eccitanti sono purtroppo delle sostanze che non espongono al rischio di ictus fra 20 anni, ma oggi. Diciamo, quindi sono delle bombe a orologeria, sì. Professoressa Sacchetti, sì. La parola ictus significa letteralmente colpo e l'ictus arriva all'improvviso. E siccome mai, come in questo campo, il tempo è vita, professoressa, quali sono i segnali che noi non dobbiamo sottovalutare? Allora, se all'improvviso la bocca si storce oppure il braccio, la gamba, anche separatamente, perdono la forza, oppure abbiamo come un formicolio sul braccio o sulla gamba, anche alla faccia, un disturbo di campo visivo, cioè una parte del campo visivo all'improvviso scompare, oppure scompare totalmente la vista, ecco, questi sono sintomi che debbono far pensare ad un ictus cerebrale, e allora è importantissimo chiamare il 118 e andare immediatamente in ospedale. Ecco, chiamate il 118, non chiamiamo l'amica, il figlio, il vicino di casa per dire è capitato anche a te, cosa mi sarà capitato. 118, si va in ospedale. Vi ricordo che maggio è il mese della prevenzione contro l'ictus, e proprio per questo motivo per l'intero mese Alice Italia Onlus, l'associazione per la lotta all'ictus cerebrale, ha previsto una serie di iniziative e di informazioni per sensibilizzare la popolazione, e ci sono su tutto il territorio nazionale, proprio per diffondere una maggiore consapevolezza su questa patologia e favorire quindi una migliore prevenzione. L'elenco dettagliato degli appuntamenti lo potete consultare sul sito di aliceitalia.org. Professoressa Sacchetti, grazie, la saluto, buona giornata. Grazie, arrivederci. Mal di pancia, tensione, senso di pesantezza, ma anche gonfiore. Il problema si può presentare ogni tanto, ma diventare anche un po' invece più frequente. Insomma, da ospite in attesa si può trasformare in inquilino. Abbiamo in linea con noi Massimo da Milano e poi dottor Meroni, vorrei riprendere con lei questo concetto. Il cuore a volte si fa sentire anche nella pancia. Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, una gentilezza, io sì. Dal 94 soffro di dei crampi saltuari nella parte bassa destra del ventre. Sì. Ecco, all'epoca avevo fatto una schermografia, il medico di famiglia aveva fatto una schermografia e mi avevano detto praticamente che era dovuto probabilmente a stress. Sì. Poi io non ho più approfondito questa cosa, però ancora oggi, sempre in maniera saltuaria, è come se qualcuno mi infilasse due dita e li girasse un paio di volte dentro della mia pancia, diciamo così, e poi passa, insomma, tutto passa nel giro di una quindicina di secondi. Però sono quei 15 secondi qui magari non riesco neanche quasi molto un dolore forte sul respiro, diciamo. Ecco. Allora, Massimo, dottor Meroni ci ha dato l'indicazione sul dove, come e quando. Certo. Ecco, quando non tanto, però. Quanti anni ha Massimo? 38. 38. È formidabile, la fantasia descrittiva dei pazienti meriterebbe un libro. Ma guardi, con un criterio molto spanometrico, se dal 2004 che soffre dal 94 che soffre di questo disturbo, non è vero che un dolore di lunga durata innocente necessariamente, però può stare ragionevolmente tranquillo. Immagino che di esami ne abbia fatti a IOSA in questo periodo, perché poi parleremo anche di esami, di accertamenti diagnostici. Sulla base della clinica o dell'anamnesi, cioè di quello che le raccontato, è un po' difficile immaginare. A destra c'è l'appendice, ma ragionevolmente hanno escluso un'appendicite, o c'è una zona anche molto particolare che è il passaggio tra piccolo e grosso intestino, che può essere infiammata in situazioni cliniche molto particolari che riguardano persone giovani. Parliamo delle malattie infiammatorie dell'intestino e anche qui c'è tutto, adesso un parolone grosso, workup diagnostico da fare e che incomincia da una buona visita. Quindi se da un po' che non si fa vedere da un clinico, da un gastroenterologo, forse è il caso di farlo. Andiamo al cuore che si fa sentire nella pancia per dare delle indicazioni precise, per capire come questo dolore noi possiamo, senza sostituirci naturalmente al medico, certo, capire che magari non è lo stomaco, non è il fegato che tiriamo sempre in ballo, ma potrebbe arrivare un pochino più da lontano. Dottore. È un argomento molto importante, può essere il cuore, può essere qualcosa che col cuore ha a che fare, tipo l'aorta. Il cuore, se vogliamo immaginarcelo, è un organo che è adagiato, è sdraiato su quella lamina muscolare che si chiama diaframma e che separa il torace dall'addome. Ora, è possibile che certe situazioni importanti come un infarto del cuore, un infarto del miocardio, della parete posteriore, abbiano una sintomatologia, cioè diano dei disturbi addominali. Quindi un dolore importante, ovviamente, addominale, tanto importante da far pensare a un'ulcera perforata, e beh, stiamo attenti, potrebbe invece essere cardiaco. Così come dolori forti addominali al centro dell'addome che non passano, persone anziane, pensiamo all'aneurisma. Non vorrei fare terrorismo, però ricordiamo tra le cause possibili anche queste. Che tra tutte le varie cause che possono provocare il dolore alla pancia potrebbero esserci anche certo, queste. Quindi soprattutto l'intensità del dolore e il fatto che arrivi all'improvviso. Certo. Dottore, lei diceva che un tempo si diceva che la pancia era un po', no, la tomba del medico, adesso invece il medico guarda dentro la pancia. Naturalmente non stiamo consigliando di fare indigestione di esami, ma quando e come, quali sono necessari? Assolutamente sì. Importante sottolineatura questa, perché lo shopping sanitario è una tentazione forte oggi che il livello culturale della gente è cresciuto. Prima di tutto una valutazione del medico di medicina generale, che fondamentale, è una figura filtro, fondamentale, anche perché conosce la storia del paziente, della sua famiglia, quindi tutto questo aiuta molto. Ovviamente abbiamo a disposizione sia degli esami del sangue, per esempio molto banali, gli indici di infiammazione, tanto per capire se è un problema infiammatorio acuto o no. E poi ci sono degli esami strumentali, qualcosa che permette di vedere dentro la pancia, in un crescendo di invasività, che va dall'ecografia, fino alla TAC, alla risonanza, cioè metodiche radiologiche e non dimentichiamoci, e qui gioco in casa, le metodiche endoscopiche. E certo, che sono molto, molto importanti e soprattutto hanno veramente fatto sono diventate sempre più raffinate. Straordinarie. Parlo delle mie creature, quindi. Maria Serena ci chiama da Bologna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io vi volevo sottoporre questo quesito. Io ho una figlia che ha 23 anni che ogni tanto lamenta un po' di bruciore di stomaco e a volte quando si alza da tavola deve mantenere, così lei mi descrive l'effetto, deve mantenere la posizione in cui è, se no partono dei dolori piuttosto impegnativi. Sempre lei me li descrive a livello dell'ombelico. Sì. Quindi se è seduta deve rimanere seduta almeno per un'oretta. Altrimenti partono questi fastidi, notevoli però, ecco, io la vedo veramente in difficoltà. E a questo è associato anche un quadro di stitichezza importante. Allora mi chiedevo, appunto, anche in rapporto a quello che avete appena detto, fino a dove spingersi con degli esami, perché chiaramente insomma la persona è giovane, certo. Per cui ecco, certi esami troppo invasivi mi sembrano un po' esagerati. Passiamo la parola al dottor Meroni prima di andare alle informazioni sul traffico. Ha detto due cose importanti, ha detto dolore e stipsi, quindi c'è un sintomo, il dolore, che può essere in qualche modo collegato alla stitichezza, il richiamo d'organo quindi all'intestino in senso lato. 23 anni è vero, è giovane, però comunque se non ha mai fatto qualche accertamento merita di essere fatto, signora. Non necessariamente devono essere invasivi, vero? Non necessariamente invasivi. Ad esempio? Si comincia con una buona, a parte la visita, degli esami del sangue, vedere se ci sono elementi di infiammazione o no, se esame delle feci, se ha perso sangue o meno. E poi un'ecografia ben fatta oggi vede la parete dell'intestino, quindi ci sono delle buone possibilità, certo, per venire, per diagnosticare il problema senza necessariamente, come diceva Maria Serena, affidarsi, seguire degli esami, certo, più invasivi. Siamo tornati insieme in studio con il dottor Meroni, ma in linea con noi abbiamo anche il dottor Andrea Guala, che è primario pediatra all'ospedale di Verbania. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Dottore, io vorrei parlare del mal di pancia dei piccoli, che direi è frequente anche nei lattantini, le famose colichette. Nei lattantini, dopo il primo mese di vita, non è frequente, è proprio la regola. La regola, vede? Ecco, io non volevo esagerare, ma lo fa lei e quindi lei può farlo. Qualcuno è più importante perché dura qualche ora al giorno, qualcuno meno importante, ma tutti i lattanti hanno queste coliche che sono fisiologiche, che non sono legate all'alimentazione, perché ce l'hanno sia quelli allattati al seno che quelli che mangiano il latte artificiale, e che sono benigne perché due o tre mesi dopo, verso il terzo o quarto mese, scompaiono. Il bambino però spesso si lamenta anche molto, piange, le mamme iniziano con i massaggini, si passa il pupo dalla mamma al papà, questo non vuole dormire. Dottore, che cosa si può fare? Questo è vero. Il primo consiglio è quello di mantenere la calma. Calmi. Perché il dolore ce l'ha lui, sì. Sì, però tante volte più poi è ansiosa, ma anche a livello inconscio, la mamma, e più il bambino diventa anche lui a sua volta ancora più irritabile. E il massaggio infantile, anche quello organizzato dalle associazioni tipo l'AIMI, eccetera, è molto efficace e non farmacologico. E se proprio queste cose non funzionano, ecco che ci sono delle medicine da poter aiutare nei periodi più di crisi. Dottore, io salirei leggermente di età, perché a volte i nostri bambini magari non lo descrivono proprio con dovizia di particolari, però piangono e dicono mamma mal di pancia. Le mamme, non solo quelle più ansiose come me, ma possono, se il dolore, se il bambino si lamenta molto, pensano a qualche cosa che assomigli in qualche modo all'appendicite. Allora lì il timore è di trascurare magari un dolore pensando che passi e non magari facendo un danno. Dottore, come riconoscere un mal di pancia importante nel bambino? Ecco, di solito è il bambino che ce lo fa riconoscere perché è sofferente. Sì. E soprattutto non è un mal di pancia che passa in 30 secondi o in 2 minuti. È una cosa che dura nel tempo. Ed ecco che se un mal di pancia dura qualche ora, forse il consiglio è quello di consultare un medico che almeno metta una mano su quella pancia per poter distinguere grosso modo se è una cosa chirurgica, quelle che preoccupano di più anche i medici, l'appendicite, ma anche un'ernia, una torsione del testicolo in un maschio o delle ovaie nella femmina e così via, dai invece i mal di pancia tra virgolette normali, quelli magari da indigestione, il bambino ha mangiato, ha esagerato un po'. Intanto abbiamo in linea Giovanni da Bari, vediamo se per una domanda per il dottor Meroni o per il dottor Guala. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. La pancia sua o quella del suo bambino? quello del mio bambino. Allora attiviamo il dottor Guala. Passi alla domanda, grazie. Sì, allora io sono genitore di un, siamo genitori di un bambino di, che attualmente ha 3 anni e 4 mesi. Sì. All'età di 18 mesi è stato operato per un'appendicite complicata da peritonite. Dopodiché, 4 mesi fa, quindi all'età di 3 anni, ha subito un nuovo intervento per occlusione intestinale da briglie aderenziali. Sì, quindi una pancina un po' compromessa. Sì, adesso, e adesso come sta? Adesso sta bene. Bene, questa è una buona notizia. Abbiamo fatto degli esami perché ci avevano consigliato di indagare eventualmente per fibrosi cistica e per celiachia, e tutti e due hanno dato esito negativo. Allora, poiché tutti e due le situazioni hanno esordito con mal di pancia, è ovvio che in questo momento noi ogni mal di pancia del bambino siete un po' in apprensione. Assolutamente sì. Allora, quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Coinvolgo entrambe forse i miei esperti. Dottor Guala, lei come pediatra che cosa si può aspettare? Quali consigli darebbe a Giovanni? Ma i consigli, in effetti, le briglie amniotiche che si possono evidenziare dopo una infezione di tutto l'intestino, di tutta la cavità peritoneale, sono una delle complicanze che possono manifestarsi addirittura a decenni di distanza. Quindi adesso nel caso specifico dopo 1 anno e mezzo, ma le possibilità erano anche molto più a lungo. E se il chirurgo ha sbrigliato queste briglie, ecco che dovremmo aspettarci nulla per il futuro, ovviamente con tutti i se del caso. Certo. Allora, quindi Giovanni, un messaggio di ottimismo, di tranquillità da parte del dottor Guala, che salutiamo e la ringrazio per essere stato con noi, dottore. Arrivederci. Dottor Meroni, invece, lei sa bene che chi ha mal di pancia, dato che il dolore non piace a nessuno, cerca di eliminarlo utilizzando gli antidolorifici, oppure se sente bruciore di stomaco con gli antiacidi. Allora, io volevo sapere, dato che noi siamo un po' tendenti al fai da te, se questa alla lunga può portarci dei problemi. Abbiamo l'occasione è ghiotta, quindi perché non parlarne? Certo, nessuna riserva sul fai da te che riguarda gli antiacidi. Sì. Molte riserve sul fai da te che riguarda gli antidolorifici, e mi spiego. Una situazione di dolore causata dallo stomaco, tipo erosioni o ulcere, può essere peggiorata dall'assunzione di un antidolorifico, i cosiddetti FANS, cioè farmaci antinfiammatori non steroidei, dall'aspirina in su. Sì. Perché sono situazioni che possono addirittura peggiorare l'ulcera, farla sanguinare, quindi è molto cauto. La diagnosi è sempre prima della terapia. Però se uno ha mal di pancia, alcuni ad esempio dicono metti il caldo, no? Metti il freddo, che cosa si fa per... Anche questo è importantissimo, se è una situazione di infiammazione col caldo peggiora. Sì. Quindi nel dubbio che sia un'infiammazione della colecisti, o un'appendicite, assolutamente no, il caldo si raffredda col ghiaccio. Sì. Il caldo va bene quando ci sono degli spasmi, e soprattutto persone che sanno di soffrire di coliti, tra virgolette, insomma, è d'obbligo la virgoletta. In questo caso il caldo ha un effetto miorilassante, rilascia la muscolatura intestinale e può lenire il dolore della colica genuina. Dottore, proprio 10 secondi, mal di pancia, dopo un mal di pancia ci si mette a dieta e si mangia in bianco solitamente, così come regola generale, va bene o va male? Giusto, si perde anche peso. Ah, lei ci fa mettere in bianco, io speravo che lei mi dicesse ma no, basta continuare a fare una dieta varia ed equilibrata. Dottor Meroni, io la ringrazio per essere grazie stato a con voi, noi come sempre. Ricordo ai nostri ascoltatori che ci possono raggiungere scrivendoci un'email a esserebenessere@radio24.it. io vi aspetto come sempre domani dopo il GR delle 11. Buona giornata.